Il titolo rappresenta una specie di illusione di buona morte, nel senso che il nostro protagonista, che si chiama Felice Venturi, è un ragazzo bolognese che ha una strana dote. Se tocca un moribondo negli ultimi secondi di vita, gli può regalare un'illusione molto realistica e molto lunga. Gli regala un bellissimo futuro di anni felici e senza che il soggetto sappia che è un'illusione. È convinto di star vivendo una vita bellissima, quella che si meritava, anche se ha pochi minuti di vita nella vita reale. Però lui muore felicissimo. È la morte a colori, per l'appunto, è una morte meritata che fa morire felici questi fortunati, è una parola grossa, però queste persone che stanno lasciando la vita, almeno in modo positivo. Certo, almeno insomma un ultimo ricordo bello, ecco. Esattamente. Questo libro è sia una commedia romantica, perché insomma poi ci sarà anche una storia d'amore, che un romanzo un po' paranormale, vista la capacità, no, del protagonista. Ti volevo chiedere, Gianluca, come hai tenuto insieme queste anime appunto del libro? Beh, è un equilibrio sottile, ma non difficile da ottenere, nel senso che l'atmosfera è da commedia romantica con un tocco particolare. C'è Felice ha una fidanzata ufficiale che però, ahimè, ha una malattia di scadenza misteriosa. Lei prima o poi sa che la sua vita ha un limite misurata, e lui, pur in realtà non amandola più da tempo, si è ripromesso di essere accanto a lei quando accadrà e toccarla al momento giusto. Però si è anche invaghito di una bella ragazza che ha conosciuto su internet, della quale si è innamorato al primo incontro, e non ha detto nulla né del suo dono né del suo status di fidanzato, e si strugge un po' per amore in questo dualismo sentimentale, condito da momenti in cui qualche moribondo qua e là lo incontra. Ecco, dicevamo che uscirà il 3 novembre, lo presenterai qua a Bologna, sai già qualcosa, qualche sì, data ci puoi anticipare? Certamente, sarò il 10 novembre al Libraccio di Piazza dei Martiri, alle 18.30, se non erro, mi sembra sì, e poi vedremo, poi intanto cominciamo il tour di questo libro, lo portiamo in giro, ma da Bologna si comincia sempre. Certo, come ultima domanda, Gianluca, ti volevo chiedere invece dove ti è arrivata l'ispirazione per questo potere speciale, chiamiamolo così, del protagonista, perché è davvero particolare, ecco, questo ultimo tocco di vita e di morte. Beh, sai, non so quanto sia bello dirlo, però effettivamente in un'osteria, come spesso mi capita, in un'osteria, in un momento di, come posso dirti, simpatia alcolica, quando questo momento di simpatica ebbrezza, qualche idea assurda salta alla mente, ti giochi un po' con l'idea assurda e vedi quanto assurda è, quanto posso giocarci, quanto posso portarla avanti, faccio un racconto, faccio un romanzo. E alla fine un romanzo ci stava bene, dopo questa idea assurda. Bene, grazie mille Gianluca per averci raccontato qualcosa di più, e insomma ti aspettiamo appunto qui a Bologna per presentarlo e per riparlarne. Grazie ancora Gianluca. Ciao, ciao.